Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Si è uccisa dopo essere rimasta per mesi vittima di scherno e disprezzo. Un anno fa aveva girato immagini hard con un amico, doveva essere un modo per far ingelosire il fidanzato, una pericolosa leggerezza. Il filmino, grazie alla dabbenaggine e alla crudeltà di chi era in possesso di quei frame, da WhatsApp era rimbalzato su Facebook e su Twitter, per finire tra i siti porno. Una vita, quella di Tiziana Cantone, 31 anni, devastata dal web. Ancora una vittima dei social network e della superficialità dei suoi frequentatori. Una frase pronunciata nel video era diventata un tormentone, finita persino sulle magliette. E le parodie, insieme con la facile ironia, solo un'ora fa giravano ancora in rete. Nessuna clemenza, niente pietà per Tiziana, che si era rivolta al tribunale. Il suo legale aveva citato in giudizio Google e YouTube. La giovane donna aveva ottenuto persino l'autorizzazione a cambiare cognome. Da Mugnano, il suo paese in provincia di Napoli, si era trasferita in Toscana, ma i pettegolezzi e le frasi offensive l'avevano inseguita ovunque, e il sorriso che la illumina in questa bella foto con cui la vogliamo ricordare si era spento anche velocemente nel luogo che sembra più attraversato dallo spirito di spregiudicatezza. Regna sovrana una ipocrisia che si taglia con il coltello. Oggi vi racconto l'epilogo della storia di Tiziana Cantone. Ne parlai a Melog il 25 maggio 2015. Potete andarvi a riprendere la puntata nel sito di Radio 24. Non ho avuto il coraggio e non ho avuto assolutamente nessun desiderio di rimandare in onda l'origine di tutto questo. Allora lo analizzammo come un fenomeno di costume, come un video prodotto volontariamente da una donna, e sul volontariamente lo sottolineo, volontariamente in piena coscienza, perché questi sono i virgolettati presi dagli atti giudiziari di questa vicenda travagliata, che è durata soltanto un anno, ha visto distrutta la vita di una ragazza. Questa ragazza fece un video in cui lei faceva l'amore con un suo amico, mi sembra in un'automobile, in maniera molto esplicita. Lui la filmava, diceva: hai fatto il video, bravo. E tutto era, diciamo, organizzato e sceneggiato ai danni di un presunto fidanzato, trattato come un cornuto, come un essere non all'altezza. Nella sua precisa volontà allora pensava, con quel gesto, che poi ha ripetuto in altri 5 video, quindi video sono 6, di compiere una sua vendetta nei confronti del fidanzato. Non sappiamo bene qual è la ragione. Questa vendetta, per una naturale sua forma di sottostima del rischio, gli amici che avevano ricevuto questo video su WhatsApp, invece che tenerselo e farsi, come pensava lei, delle risate alle spalle dell'amico ex fidanzato, l'hanno naturalmente messo in giro. È diventato un cult nella rete, si è diffuso virtualmente. La frase "hai fatto il video, bravo" diventa un meme, cioè diventa qualcosa che è come se fosse una frase che viene applicata ovunque, in altre situazioni, esce dal suo contesto. Lei divenne nel giro di poche ore improvvisamente celebre. Tutti la conoscevano e su di lei sono state fatte canzoni, parodie, siti web. Ancora, come ha detto la collega del giornale radio, fino a poche ore fa esistevano dei profili Facebook dove ancora ironizzavano su questa ragazza. Leggo un SMS, come volete chiamarla, una che fa un film porno e poi lo mette in rete, vergine. Quanto è superficiale questa cosa. Nell'ambito della propria sfera privata ognuno ha diritto di fare quello che vuole. Questa missione vuole essere una trasmissione che vuole spiegarvi che oggi non esiste più una sfera privata che possiamo considerare, anche nelle migliori intenzioni, inviolabile. Tutto ciò che noi lasciamo tracciato in una memoria digitale ormai appartiene al mondo, perché esiste sempre un pertugio in quella che pensiamo sia una grande muraglia impenetrabile, per cui questo barlume di nostra privatissima vita, di cui abbiamo diritto comunque, diventa di tutti. Per questo facciamo una trasmissione. A tra poco. 800 24 00 24. Melog. Cronache meridiane. La vicenda merita un po' di attenzione e un po' di contestualizzazione. È chiaro che nella volontà di questa ragazza era semplicemente diffondere un messaggio in una stretta cerchia di amici. È chiaro però altrettanto che non possiamo più noi considerare, col pieno rispetto e sincero dolore per una ragazza che si è strangolata, che si è uccisa con un foulard, perché non ce la faceva più, è diventata al centro di un meccanismo che le era esploso in mano, è diventata il simbolo dell'irrisione, la donna che comunque compie volontariamente un atto sessuale, compiacente, divertita, scanzonata, senza sensi di colpa. Quindi improvvisamente, chissà perché, in un mondo in cui fior di attrici e di star dello showbiz internazionale diventano famose perché appare improvvisamente, apparentemente, casualmente, un loro video porno. Ricordate la vicenda, quanto fece bene alla carriera di Belen questo video suo giovanile, di lei che appunto propinava la stessa attenzione a un suo fidanzato di allora. Abbiamo creato delle eroine del libero pensiero, ricordate la famosa insegnante di Pordenone, un insegnante di liceo che faceva ammucchiate a botte di 20 persone negli autogrill d'Italia, poi andava in televisione a raccontare quanto sentisse liberata per questo. Non lo dico senza ombra di moralismo, fa quello che vuole, diffonde la sua immagine, diventa un simbolo di strafottente libertà sessuale, ne prende felicemente le conseguenze, questo voleva. Ma non c'è mai stato un accanimento così feroce e così vigliacco nei confronti di una persona per un video che comunque alla fine non dista molto dalla maggior parte di quello che trovate nei siti dedicati agli scambisti, agli esibizionisti, ai guardoni, ai mariti cornuti e via dicendo. Cioè l'Italia è piena di video pubblici o resi pubblici comunque di persone che fanno l'amore. Per questa ragazza, per meccanismi che poi ci spiegheranno magari gli esperti, è diventato un simbolo. C'è questa sorta di cattiveria e di bullismo adulto che ha preso il grande popolo della rete, per cui su di lei si sono accaniti, forse perché era in difesa, forse perché capivano che in realtà si era pentita di questo gesto, forse perché capivano che è stato un momento di libera espressione della propria passionalità, anche se finalizzata comunque a un atto di offesa verso un uomo, o perché in realtà il grande maschilismo della rete e la grande complicità dell'uomo maschilista voleva punire la donna di aver punito un uomo rendendolo cornuto. Detto questo, mi piacerebbe riflettere su alcune vicende. Di questa vicenda se ne parlerà ancora molto, perché c'è stato un atto giudiziario, quanto difficile e inutile. Tanto più una cosa la vuoi cancellare dalla rete, tanto più la rete la prolifica, la rimette in giro, trova canali paralleli. Ci sono sempre degli angoli della rete che sono inarrivabili dai grandi cani poliziotto del lecito diritto di non lasciare traccia di ciò di cui non si vuole lasciare oblio. Ma su questo tipo di attività, della propria intimità o dell'altrui intimità, usata come merce di scambio, mi dicono addirittura alcune banche giapponesi, quando vanno dei giovani o delle giovani a chiedere credito e non hanno garanzie, chiedono come garanzia un video porno. Dice: noi lo teniamo come garanzia del fatto che comunque ci ridiate questi soldi. Sembra una cosa perversa, assurda, irreale, però è diventata qualcosa che ha un suo valore sociale, ma anche monetario. Immaginate il mercato di tutte queste cose. E anche un suo valore come, diciamo, moneta di ricatto, di sopraffazione e di violenza, allo stesso tempo per ottenere comunque dei vantaggi. 800240024, la domanda è: che uso fate voi dei vostri momenti di intimità e quanto avete cautela e attenzione nel tenerli ben stretti e non avete in realtà la tentazione di condividerlo? Ogni condivisione, anche fatta su WhatsApp, che è un circuito chiuso, comunque sia, è l'anticamera della diffusione totale. Avvocato Gassani, buongiorno. Buongiorno. Allora, Gianettore Gassani, lo conoscete bene, autore dei Perplessi Sposi, Dichiaro Divorziati e via dicendo, editore imprimato, è il rappresentante degli avvocati matrimonialisti che si occupano comunque di diritto familiare. Allora, Gianettore, nelle varie tante vicende di dissidi e di lotte che avvengono in seno alla famiglia quando esplode, alle coppie, quanto è importante la documentazione di atti sessuali che riemerge come un cadavere di un affogato dal fiume e quanto diventa strumento di violenta negoziazione tra le parti? Devo dire che molte volte succede che ci sia il ricatto processuale che consiste appunto nella minaccia di produrre messaggi hard, fotografie peccaminose, scoperte anche fraudolentemente sul cellulare o in rete nei confronti dell'altro. A parte il fatto che c'è uno sbarramento circa la producibilità in giudizio di certi documenti, ma spesso e volentieri questi documenti comunque arrivano in tribunale. La rete è una zona franca, è una zona che purtroppo di confine, è un po' come lo stadio. Nella rete succede di tutto, tutto quello che non potrebbe succedere in un ufficio, in un condominio, in rete succede. Ecco, ma per la tua esperienza, Gianetto, per la tua esperienza, allora, tanto parliamo di una materia che è ben definibile, inutile che ci giriamo intorno. Sì. Una coppia, fidanzati, amanti, improvvisati, amici, occasionali, marito e moglie dopo anni di matrimonio per ridare spessore al loro rapporto, viene la tentazione, di riprendersi un atto di intimità. Sì. Viene fatto. Fino a qualche anno fa rimaneva magari, che ne so, chiuso nella macchinetta fotografica, nella cassetta e via dicendo. Oggi in realtà questi momenti intimità succede che le persone continuino a considerarli come degli atti non pericolosi per la propria vita futura? Sì, è proprio questo, perché ferma la, insomma, così, la considerazione, il dispiacere, la pietà per questa ragazza. Noi dobbiamo cominciare a considerare una cosa, che poiché la rete non ci difende, perché la rete è bellissima, è importante, è una grande risorsa, ma non ci difende, bisogna stare molto attenti, perché spesso e volentieri succede che, per esempio, lui lascia lei o lei lascia lui, e su Facebook cominciano a comparire immagini, Facebook o altri social, immagini piccanti, ricordi piccanti, testimonianze di qualcuno. Cioè, voglio dire, c'è l'utilizzo della rete per distruggere l'altro, a tutti i livelli, soprattutto quando finisce un amore. Cominciano a esserci frasi sibilline, poi si arriva sempre, poi si alza il livello, si mette la foto, poi si raccontano alcuni fatti. Abbiamo tantissimi fascicoli nel mio studio, ma negli studi di tanti avvocati, in cui noi siamo stati costretti a fare denunce, querele, chiedere la cancellazione di certi messaggi, certi post, proprio perché esiste la vendetta nella rete. Ed è un fatto molto più frequente di quanto si pensi, perché spesso e volentieri noi non solo produciamo eventualmente le fotografie di lui che scappa con la giovane ragazza con un sotto falso nome e c'è la foto, la portiamo in tribunale, ma c'è anche magari il commento di lui o di lei poco edificante sulle prestazioni sessuali, chiaro che poi si realimenta. Allora voglio dire, attenzione, questa grave sciagura di questa povera ragazza ci serve di lezione, nessuno ci potrà difendere. Perché anche se c'è l'ordine del giudice di cancellare certi messaggi, come giustamente hai fatto rilevare tu, c'è la possibilità di ripristinare e riproporre quei messaggi. Ma figure, riappaiono in 100.000. Allora, ferma un attimo, Gianetto Castagna, c'è una cosa molto importante. La rete, che è il luogo dell'espressione delle nostre volontà, delle nostre abilità, del nostro modo d'essere, nell'occasione particolare della fine di un rapporto amoroso, diventa anche il luogo della vendetta. La vendetta inizia molto graduale, comincia dalla ragazza che si lascia col fidanzato, mette le foto della sua vacanza dicendo: conosciuto ragazzi bellissimi, si fa vedere lei che prende l'aperitivo con un altro uomo, si fa vedere lei contenta, felice, mette immagini per far rodere un po' l'anima a questo. L'escalation è velocissima, da questo a voler far veramente male, cioè proprio dire mi sono messo con altro, ho passato una notte bellissima con un'altra donna o con un altro uomo, far girare video o del rapporto precedente come vendetta, faccio vedere al mondo come eri. Pensate quanto c'è di retrogrado e di bestialmente arcaico in tutto questo, oppure mettere, come ha fatto questa ragazza, pensando di fare un gesto, in effetti il gesto era terribile e faceva malissimo alla persona, non credo ci sia di peggio, però lei pensava a tutta ragione, dice lo mando ai suoi amici, così gli amici glielo fanno vedere e lui si rode, ma in realtà il mondo non ha reagito così. Pierpaolo, buongiorno. Buongiorno, salve. Io naturalmente ho 48 anni, quindi non sono un nativo digitale. Secondo me c'è una differenza abissale tra i nativi digitali e no, nel senso che secondo me i nativi digitali hanno molte meno difese, perché noi non nativi digitali potevamo fare cose similari all'epoca, diciamo la classica parola che si chiamava sputtanamento, ma la si faceva nel bar, in cui sì, forse lo veniva a sapere gli amici del bar, forse il quartiere si eri più sfortunato, ma tutto si fermava lì. Che si limitava del caso maschile a descrivere capacità amatorie multiple della ex donna millantando con gli amici, dal lato femminile al contrario, dicendo questo era tutto fumo e niente arrosto, non valeva niente, dicendo, stava nel gioco, era comprensibile. Ma quando questo viene proiettato in un mondo così diffuso come quello della rete, non può valere lo stesso meccanismo. Professor Giovanni Boccialtieri, buongiorno. Buongiorno a voi. Adesso brevissimi prima della pausa, poi avrò tempo di approfondire con lei. Ricordo presidente del corso di laurea di scienza della comunicazione all'Università di Urbino, Carlo Bo. È valido secondo lei il pensiero di questo ascoltatore, che il nativo di questa ragazza poi non era proprio nativa digitale, che aveva 30 esatto. anni, comunque era una ragazza che conosceva i mezzi di diffusione della rete. Secondo lei, perché è così diffusa questa incoscienza generale sulla possibile diffusione indelebile di momenti di intimità, quando si pensa che basti semplicemente mandarli ad esempio su WhatsApp perché nessuno se ne accorga? Di cosa è stata veramente vittima questa ragazza? Ma perché noi tendiamo molto a confondere la comunicazione fra persone, quella interpersonale, in questi mezzi con la possibilità che il digitale ha. Il confine è decisamente saltato, quindi noi abbiamo la percezione di avere uno scambio, per esempio a due, in una chat, e come dire, non abbiamo sempre in mente che basta fare uno screenshot, una fotografia di quello che c'è sullo schermo e magari metterlo su Facebook e far diventare immediatamente la portata di quel tipo di conversazione che stiamo facendo, prendendo in giro qualcuno, mostrando la nostra immagine intima e così via, qualcosa che può scalare il pubblico e diventare, come dire, materiale per un audience. Questo confine che è saltato fra la comunicazione interpersonale e quella di massa è il confine più labile che stiamo cercando in qualche modo di imparare a gestire, e spesso ce ne rendiamo conto solamente ex post, purtroppo, sulle vicende più gravi che accadono. È chiaro che non c'è nemmeno la consapevolezza, in realtà, dell'aspetto propriamente giuridico. Non si rendono conto, ma forse fa parte di una tante impunità di cui siamo sicuri, come noi sappiamo, lasciare una macchina in divieto di sosta, tanto la multa non la pago e via dicendo, che le persone che poi diffondono in rete un video hot, porno di un'altra persona, compiono un reato. Ma in un paese in cui in realtà c'è il senso diffuso dell'impunità, forse è l'ultima delle preoccupazioni dire che bello, questa qua ha osato fare atti sessuali per sputtanare il fidanzato, adesso noi sputtaniamo lei. Ci fermiamo un istante, a fra poco, 800240024. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. 800240024, oggi parliamo della ragazza si è suicidata perché la sua frase stai facendo un video è diventata una frase per lei pesantissima da sopportare, è diventata una sorta di esempio, cattivo esempio nazionale, tutti gli uomini le indicavano, come appunto leggo negli sms che mi mandano, come una donna poco di buono, su lei ironizzavano, avevano diffuso in maniera virale il video che ingenuamente si era fatta fare, nella piena consapevolezza, ma ingenuamente, inconsapevolmente delle conseguenze, e non ha retto a questa situazione, si è suicidata. Non è una cosa allegra. Continuate a scrivere di che era una... evito la parola dato che è morta, ma perché un uomo deve giudicare troia una donna semplicemente perché ha prove tangibili che abbia piacevolezza nel fare l'amore? Ma scusate, vostra moglie, vostra sorella, vostra madre che vi ha concepito avrà avuto anche lei dei momenti di piacevolezza. Oggi il mondo è cambiato, oggi non ha possibilità comunque di lasciare traccia me indelebile di questi momenti. Delle mamme, delle nonne, delle sante sorelle non lo sappiamo, lo possiamo soltanto immaginare. Il mondo oggi è questo. Mi scrive anche un altro ascoltatore: anche la sua trasmissione, Nicoletti, segue lo stesso pensiero comune che ha prodotto la tragedia. Sappiamo anche da lei il nome e le frasi della vittima. È una notizia di comune dominio. Ne parlano oggi tutti i giornali e tutti i telegiornali. Non faccio altro che fare il mio dovere. Sto cercando degli elementi di approfondimento su una notizia perché non accadano più casi del genere, o perlomeno la gente sappia esattamente a cosa va incontro. Dove sono i nomi e cognomi dei carnefici? Il loro diritto alla privacy è superiore a quello della vittima? Perché non si fa una trasmissione su chi ha messo a rete il video con nomi e cognomi, come ha fatto con la vittima? Perché io non applico una forma di giustizia personale sputtanando chi ha compiuto un reato. Ha tutte le sue tutele giuridiche, non sarà compito mio di dire i nomi e cognomi di chi l'ha fatto, ma sarebbe come dire l'ha fatto il mondo intero. È piena la rete di gente che scherza, ironizza, crea frasi su questo, ma il fenomeno è sfuggito di mano anche alla prima persona che l'ha messo in rete. Si è diffuso, si dice appunto diffusione virale proprio per questo. Giorgio, buongiorno. Sì, buongiorno e complimenti. Io volevo dare, come diceva lei, un elemento, diciamo, di approfondimento, che sarebbe questo secondo me, ovvero che non solo queste cose sono aperte quindi ad amanti traditi piuttosto che a persone che si lasciano eccetera, ma inconsapevolmente, cioè potrebbe esserci qualche persona che scatta delle foto senza sapere che le ultime tecnologie, certo, vanno a immagazzinare queste foto non solo nella scheda del proprio telefono, ma nel cloud, perfetto, ma nel cloud. E quindi queste cose possono essere aperte ad un bravo hacker che va dentro e può comunque mettere in giro tutto quello che la gente non sa di aver caricato inconsapevolmente su internet. Le faccio un esempio, spesso mi dicono amici o amiche, non capisco che non riesco a cancellare le foto dalla galleria del mio telefono, riappaiono sempre. Perché a meno che tu non blocchi questa funzione in partenza, oggi telefonini di ultima generazione, siano essi diciamo tanto Android oppure Apple, comunque sia, le foto te le mettono da qualche parte. Tu devi avere la possibilità, se il telefono te lo rubano, scompare, si rompe, di avere il backup e tutto quello che hai messo. Questo è di default, tu puoi dire di no. Quindi ogni foto che fai, anche la più scherzosa, cancelli subito. Rimane comunque da qualche parte. Basta averne la consapevolezza. Giusto questo che ha detto. Fabio. Sì, Fabio. Salve. Chiamo da Padova. Scusi l'emozione, però. Io volevo rispondere alla sua domanda. Ad esempio, io... mi sono levato da Facebook perché mi sono reso conto che ero il controllato e il controllore, ok? Alla fine non potevo più fare nulla, non potevo più fare nulla perché alla fine qualsiasi pensiero o qualsiasi cosa veniva sempre giudicato e stranamente in modo negativo. Io prego ai genitori, e io sono genitore, di levare via le foto dei bambini, ok? Metterle su Facebook al mare e via dicendo. Perché questo è un indice comunque che può portare altre persone, e uso una parola un po' pesante, a masturbarsi di fronte a una foto di bambini in costume. Sì. La ragazza, mi dispiace, ha sbagliato, ma uso anche una frase, se l'ha cercata. Lo so, sì, non diciamo le stesse cose, come dicono della ragazza in Calabria stuprata per mesi perché era una ragazza che se l'è cercata. Se l'è cercata. È un momento di passaggio, non abbiamo ancora la consapevolezza reale di cosa sia questa nostra interfaccia costante sulla nostra vita che lascia tracce di noi. Sì, è vero, Facebook diventa una grande trappola, oltre un grande strumento di libertà. Impedire che esista Facebook vuol dire vivere in un'altra epoca. In questa epoca esiste il social networking. Bisogna capire come questo in realtà può essere uno strumento di vita migliore e di relazione migliore, non uno strumento di oppressione. Non chiama una donna, 800 24 0024, è morta una donna per un atto che normalmente viene attribuito agli uomini, la libera e volontaria diffusione in un video porno in rete per vendetta, non c'è una donna che ha un suo pensiero e un suo giudizio. Signore che ascoltate, avete anche voi in questo momento il palpitare del cuore per quel video che una volta avete fatto con quella persona che tanto amavate, che vi sembrava la persona che combaciava perfettamente con la vostra vita? Oggi è lontano, non è più come prima, non lo riconoscete più, non è più l'uomo che io amavo, o viceversa, vi è mai accaduto che vi fosse fatto il brutto sgarbo di qualcuno che ha messo in rete cose che voi non volevate che vedesse il mondo? Mirko, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Mi sente? Sì, l'ascolto. Buongiorno. Ma io non volevo fare opera di cinismo e dire, ripetere quello che probabilmente hanno un po' detto in tanti, cioè che non credo che non ci sia la notizia. Immagino una persona che si ammazza non è che sia una notizia, però il meccanismo che da un anno aveva una battaglia legale, questa è la notizia, un anno che lei aveva battaglia legale perché il suo atto di, diciamo, sconsideratezza fosse in qualche maniera salvato, quello ha detto cancellatemi tutto quello che ho, cambio vita, voglio cambiare nome. Ci stiamo rendendo conto che non c'è uno strumento giuridico, uno strumento tecnologico per cancellare qualcosa che è affidato alla rete. In rete comunque riaffiora, abbiamo sempre il cadavere dell'affogato che viene a galla. Questa è la notizia, secondo me, per chi ancora questo non l'aveva ben capito. Prego. No, quello senz'altro è il problema dei social, è il problema di questo mezzo di informazione, di questi mezzi di informazione. Ma il cicaleccio, l'esposizione al pubblico ludibrio, è una cosa che è data dalla notte dei tempi. Questa è la natura umana. Sì, ma uno cambiava paese e finiva al cicaleccio. La ragazza chiacchierata cambiava città e non era più chiacchierata. L'uomo cornuto, la sua vergogna se la portava in un'altra città, non è più chiacchierata. Qui qualcuno lascia traccia, è come dire io creo un archivio anche di quello di cui potrò vergognarmi o potrà rappresentare per me motivo di dolore, ma non si rende conto che questo archivio in realtà prevarica ogni nostra possibilità di controllarlo. Riprendiamo con il professor Giovanni Boccia Artieri, ricordo che è il presidente del corso di laurea di Scienza della Comunicazione all'Università di Urbino Carlo Bo. Come vede, esiste sempre comunque un giudizio morale di chi sta fuori, di chi ancora non è stato toccato da questo problema. Poteva pensarci prima, qualcuno dice ma in fondo era una troia, ma che volete? Subito le stesse banali e arcaiche considerazioni vengono fatte nelle piazze dei paesi quando passa la bella del paese o quella che comunque ha avuto un amore sfortunato e via dicendo. Quindi questa grande evoluzione dell'umanità attraverso l'ipersocializzazione non è stata anche un'amplificazione di quello che già siamo e siamo sempre stati? I social network non fanno altro che rendere più visibile ed evidente quello che siamo e quindi, come dire, portare i pregiudizi che abbiamo, la nostra morale, le nostre microforme d'odio che prima sviluppavamo o nel quotidiano o in cerchie ristrette o con quelle parole che però appunto erano volatili all'interno della rete, dove tutto questo in qualche maniera lascia traccia, ma soprattutto viene esaltato proprio anche dalla dimensione di funzionamento della rete, cioè dal modo economico in cui funziona la rete. Cioè tutte le volte che noi facciamo un like su Facebook a un particolare post, partecipiamo al fatto che questo venga reso più visibile ai nostri amici, perché l'idea per far funzionare questo tipo di dinamiche e che in qualche maniera i contenuti circolino e gli altri siano stimolati ad entrare per vedere questi tipi di contenuti. Ecco perché i fenomeni virali, come dire, un po' dipendono da noi, ma il passaparola non si ferma perché è esaltato dai meccanismi stessi della rete. Cioè, quindi la rete non la possiamo controllare, inutile, possiamo soltanto avere giudizio o consapevolezza di ciò che affidiamo alla rete. Questo forse probabilmente è la soluzione. Possiamo solamente lavorare su un modo diverso di culturale, proprio di approcciarci a dei mezzi di cui parliamo come se fossero qui da sempre, ma sono relativamente nuovissimi, perché poi è di questo che parliamo, di pochi, una manciata di anni che sembrano ormai millenni, quindi stiamo ancora veramente imparando da utenti e come portare le nostre pulsioni lì all'interno, quali, quanti, come essere giudicati, come giudicare gli altri, in un mondo in cui cambiamo solamente nel momento in cui ci capitano delle cose che ci rendono visibili, dei meccanismi che sono evidenti quando ci pensiamo, ma che non vediamo finché non li proviamo sulla nostra pelle. Divertente, è tragico, ma va fatta questa riflessione. In realtà il social network, quello che trasforma in una grande coscienza comune, condivisibile, tutto quello che noi pensiamo, alla fine trova i suoi punti d'intoppo, i suoi punti critici, proprio nelle punte della nostra emotività, la passione, la, fra virgolette, non è il termine giusto, comunque la passione esasperata, la perversione, l'odio e l'amore esasperati, tutto ciò che è stato cantato negli anni, nei millenni dai poeti, che è diventato oggetto di letteratura, diventa qui il punto doloroso, proprio perché qui rimane eternamente, rimane sempre, diventa potentissimo e viene condiviso. Non siamo più noi che gestiamo semplicemente un atto di reazione verso una persona o che amiamo tanto o che odiamo tanto, a cui vogliamo fare del male o del bene, ma in realtà è tutto il mondo che diventa complice, partecipe e amplifica come fosse una valanga quello che è il sassolino che magari vorremmo tirare per richiamare l'attenzione di una persona. Ci fermiamo soltanto un istante, tra poco. Melog, cronache meridiane. Scrivono un ascoltatore: le donne non chiamano perché la solidarietà femminile non esiste. Probabilmente la maggior parte delle donne che stanno ascoltando sono anche loro i giudici e non dalla parte della ragazza. Questo va da sé. Comunque hanno chiamato le donne. Grazie, buongiorno. No, non è così, perché io sto ascoltando e sono... Spenga la radio però, sennò io ascolto lei che ascolta me e ascoltiamo entrambi noi stessi. Aspetta. Ecco. Sono allibita, cioè l'ultima frase, se l'è cercata, mi ha colpita talmente tanto. È il tormentone di questa mattina, se l'è cercata. No, se l'è cercata è un tormentone che dura da sempre, perché quando una donna si sente dire se la sei cercata, dovrebbe in quel momento denunciare, perché questa è una frase da denuncia. No, lei sono perfettamente d'accordo, mi piacerebbe che articolasse meglio questo pensiero. È una ragazza che comunque non aveva perfetta consapevolezza della potenza dello strumento con cui voleva lecitamente colpire una persona con cui era finito un rapporto e soprattutto si è erroneamente fidata dei suoi amici o degli amici del fidanzato. pensando, e questa diciamo è stata la sua leggerezza, una leggerezza più di carattere, io la vedo, tecnologico, non di carattere, non do giudizio morale. Uno è lecito voglia far male a una persona con cui non c'è più un rapporto. Sta nelle cose, non siamo santi. Una persona che ci lascia, ci tradisce, si comporta male con noi, la odiamo. E quindi entrano in gioco dei meccanismi di distruzione. Nelle tradizionali coppie è il ricatto, non sono più come prima, non mi avrei più come prima. Nel mondo digitale diventa, faccio vedere che sono felice anche se tu non stai più con me. Non so se è d'accordo lei, Grazia. Lei ha sottovalutato il fatto che quella cosa lì, che rientra nell'illecita dialettica fra coppie, voglio farti rodere, voglio che tu sappia che io vado con altri uomini perché tu non mi hai meritato, non mi hai voluto e via dicendo, non ci trovo nulla di particolare, di strano. Se posso dire, non che se l'ha cercata, non aveva cognizione tecnica dello strumento che usava per questo tipo di vendetta. Su questo, diciamo, ci troviamo d'accordo? Ma mi scusi, qui o stiamo parlando due lingue diverse, questa ragazza è stata una vittima, non si è cercato nulla. Ma chi ha detto, non ho detto se è cercato, ho detto non aveva consapevolezza. Ma neanche, non aveva consapevolezza, addirittura in un momento di debolezza, sì, di confusione. Certo, è stata una vittima, E qualcuno ancora oggi, sapendo come sono andati i fatti, dice se l'è cercata. Ma io non ho detto se l'è cercata, ho detto non aveva consapevolezza dello strumento che aveva in mano, che dava una bomba a mano in mano a delle persone. Questa è stata la cosa, se vogliamo, l'errore. Io non giudico l'atto a priori, mica dico se l'è cercata perché ha fatto male a fare, ma fa quello che vuole, sono fatti suoi. Non sapeva che dare un video su WhatsApp significa darlo al mondo. Pensava che rimanesse nell'ambito, o perlomeno non ha valutato, pensava che rimanesse nell'ambito ristretto dei suoi amici, e gli esplose in mano. È chiaro che è una vittima, è diventata come la famosa donna con la lettera scarlatta, è diventato il simbolo su cui sono sentiti tutti affrancati della propria vita personale. Questo ve lo direi io. Secondo me ci troviamo d'accordo. Laura, sentiamo Laura. Buongiorno dottor Nicoletti, io voglio intervenire per dire che nessuno ha sottolineato la solitudine di questa donna, di questa ragazza, che sicuramente ha sottovalutato il mezzo di internet, no? La divulgazione di quello che aveva fatto, ma la solidarietà dei suoi amici, dov'era? Zero, zero. Lei si è rivolta dei legali, infatti ha tentato disperatamente, con gli strumenti giusti che gli mette in mano il diritto, di fare una battaglia legale. Ha cambiato città, sta per cambiare nome, ma è impossibile, questa è la notizia oggi, è impossibile pensare, illudersi che con gli strumenti legali, una volta buttata nel grande marasma la rete, una cosa scompaia. Il diritto all'oblio è teoricamente osservato, praticamente oggi non è più possibile, perché comunque sia riaffiora sempre da qualche parte. Questo probabilmente non avevamo nemmeno noi consapevolezza fino a questo punto. Ci illudevamo, se una persona mi diffama, vinco il processo per diffamazione, cancello dalla rete quello che c'è. In questo caso era incancellabile, perché c'era un portato troppo forte, c'era dietro il disprezzo per la donna, il non permettere a una donna di avere una sua libera e consapevole sessualità, la vendetta degli uomini, le donne non devono lasciare gli uomini, e l'uomo che si è sentito, la schiera degli uomini ha visto evocato lo spettro di essere cornuti. C'era un portato talmente forte che è diventata un simbolo, appunto un meme. Giuseppe. Buonasera, anzi buongiorno a tutti. Nicoletti, la seguo da quando era bambino alla Rai. Siamo quasi maturati insieme. Allora, io non sono maturato. E forse neanch'io. No, volevo dire semplicemente, sappiate che c'è un archivio dove vengono memorizzate tutte le pagine, tutte le foto che sono state prodotte su Google anche dopo che vengono cancellate. Lei è un informatico, quindi lo dice a pieno. E restano tutte là. E lì non si cancella nulla. Io ho potuto recuperare un sito intero che era sparito da una decina d'anni, però si recupera tranquillamente. Ecco, io vorrei dire solo un'altra cosa. Ma Giuseppe, lo dice una cosa seria, da informatico. Lo dice che il codice digitale è difficilmente cancellabile, che rimane sempre traccia. Guarda che l'Open SSL è open ed è gratuito. Quando hanno bucato l'HTTPS... hanno scoperto che quella S era fatta da dei ragazzi volontari, quindi le banche si affidavano al lavoro di ragazzi volontari. Dopo che l'hanno bucato, hanno cominciato a finanziarli. Ma detto questo, io vorrei essere invece più provocatorio. Io dico a tutti i ragazzi, ma anche quelli che non sono più ragazzi, provate per 3 giorni a spegnere WhatsApp. Sì, io questo sì, lo so, io non sono d'accordo, perché lo strumento c'è, spegno, è come dire non vi fate le seghe per 3 giorni, i preti dicono una volta, tanto poi ricominci da prima, fa parte della nostra realtà questo. Finiamo con Valentina, do la parola a una donna per chiudere. Sì, buongiorno Gianluca. Sì, mi scusi la crudezza, ma mi sono stufato di dire l'astinenza, facciamo il fioretto, serve, lo usiamo tutti, fa parte della nostra vita. La sua conclusione, Valentina. Io volevo semplicemente portare un'esperienza che non è tanto per qualcosa che ho fatto io, ma qualcosa di cui mi sto rendendo sempre più conto. Io sono iscritta ad un paio di siti per incontri online. Dating, sì. Esatto. E dopo il primo contatto, ovviamente tutto tramite messaggio, perché funziona così ed è quello che io sinceramente voglio sempre mantenere all'inizio. Chiedono le foto. Chiedono le foto di nudo. Uno si mette a un sito di incontri, sappia che gli uomini chiedono foto di nudo. Se le date, sapete che voi potete fare esattamente lo stesso iter di Valentina. Alla prossima.